Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ahimè, questo scorso fine settimana abbiamo avuto le notizie preoccupanti legate al vaccino contro l'influenza, con delle morti sospette di anziani che evidentemente avevano già delle patologie, ma con l'iniezione del vaccino antinfluenzale, ahimè, sono morti. Adesso bisogna capire se queste morti sospette sono proprio il frutto anche di questa vaccinazione antinfluenzale. Certo, noi abbiamo dato la notizia di quanto stava accadendo qualche giorno fa, però devo anche dire che rispetto a qualche giorno fa le vittime stanno aumentando, quindi si parla addirittura di 12-13 vittime, adesso non si capisce bene se siano accertate o meno, ma certamente un numero che nelle prossime ore, nei prossimi giorni rischia di aumentare. Una cosa che ha comportato comunque un ritiro di due lotti dal mercato, però è anche vero che al di là di quelle che poi sono le spiegazioni, noi come Adico puntiamo un po' il dito sul fatto che non abbiamo sentito il Ministro della Salute intervenire su questa vicenda, nessuno l'ha chiamata in causa, ma certamente un vaccino dovendo fare un'opera di prevenzione, certamente assistendo a questa che è un po' la novità di quest'anno e queste tragedie che insomma questi giorni i giornali stanno snocciolando, una riflessione a tal proposito credevamo doverosa farla. Ecco, è un problema perché poi con queste notizie uno inizia a pensarci due volte, perché devi mettere un po' nel piatto la tua situazione reale, il tuo stato di salute e se effettivamente può valere la pena rischiare per non prendersi l'influenza e quindi farsi il vaccino. Sì, beh, è vero, noi partiamo da quelle che sono state un pochino i due lotti che sono stati ritirati dal mercato, ma ricordiamo che in questi giorni c'è un'indagine da parte dei carabinieri di NAS in Sicilia e anche in Molise, c'è la procura di Siena che ha aperto anche un'inchiesta sulla vicenda, ma anche quella di Prato. Certamente una vicenda che speriamo che si possano conoscere negli sviluppi, ma che come sempre invece non dobbiamo, ahimè, a doverci poi nei prossimi giorni dimenticare, però certamente una vicenda che non si può dire che sia anomala, perché il vaccino, come abbiamo detto, è una cosa che si prescrive sempre, soprattutto a chi affetta certe patologie o gli anziani, proprio per evitare che insomma possono ammalarsi e trovarsi poi di fronte a queste spiacevoli notizie di cronaca. Riteniamo che anche come Adico una maggiore attenzione, soprattutto quando si somministrano medicinali o si acquistano certi farmaci, bisogna un attimino essere più cauti, soprattutto se di mezzo ci va la salute. Questa volta ecco, i fatti si commentano da soli e noi appunto dovevamo unirci per il fatto che riteniamo che l'attenzione non debba mai essere sottovalutata e ci auguriamo che ci sia anche una giustizia se qualcuno in questo senso abbia sbagliato. Ecco, speriamo che si faccia in fretta a capire se c'è qualche cosa che è legata insomma al vaccino, che venga fuori la verità, insomma, se deve venire fuori, e anche oltretutto ricordiamo agli amici insomma che ci ascoltano di chiedere lumi al proprio medico di base, che magari saprà aiutarvi nella scelta e nella considerazione insomma se fare oppure no questo benedetto vaccino antinfluenzale. Sì, poi ricordiamo che insomma si parlano di due lotti, ma in realtà c'è anche attenzione su altre segnalazioni che riguardano altri lotti e su altre dosi che sono state distribuite in altre 12 regioni. Certamente in questo caso i lotti sono stati bloccati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA. Noi ci auguriamo che chi debba sottoporsi al vaccino, ecco, in questo momento se ha qualche sintomo non esiti a contattare il medico, ma è anche vero che se io sinceramente oggi dovrei trovarmi a fare un vaccino antinfluenzale, come magari è capitato in anni trascorsi, certamente in questo momento ci penserei. Certamente i numeri di decessi legati all'influenza ogni anno sono di diverse migliaia, qualcuno si è giustificato dicendo che 12-13 vittime rispetto agli 8.000 morti all'anno non sono Granché, però io penso che insomma ogni vita umana bisogna essere, insomma, non può entrare su un fattore di statistica, ma è dare l'attenzione, e in questo caso con la salute non si deve mai scherzare. E pertanto, ecco, sono felice di essere qui oggi a parlarne con te, insomma, certo, di questa cosa. Certo, vabbè, è importante non dimenticarsi anche di queste morti sospette, quindi ancora rinnoviamo l'idea di chiamare, insomma, contattare il proprio medico di base e decidere insieme a lui l'eventualità, insomma, di vaccinarsi oppure no. Grazie quindi all'Adico, chiudiamo l'appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie a Carlo Garofolini, il presidente. Ecco, io Francesco, prima di salutare tutti volevo ricordare che l'Associazione dei Consumatori hanno presentato 104 esposti in 104 procure della Repubblica sparse un po' in tutto il territorio, e certamente colgo l'occasione per ringraziare e salutare tutti gli ascoltatori oltre che voi della redazione. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.